mi accalda, io accaldandomi, cioè faccio una minima cosa e mi viene, vengono le caldane. Io sono tuttora in boxer a casa, renditi conto. Ma io non posso girare in boxer, c'è il mio vicino anche per il petto verso di lui. Chi ti caga? C'è la signora qua, se no anche l'uccello Furia mi sarei andato. Beh certo, magari non è un bel vedere, però ascolta. A te le immagini che me ne stanno dicendo di tutti i colori, Marco, io non posso dire una cosa che subito mi attaccano. Sì, adesso mi accendo la TV, vediamo. Ieri sono riuscito a vedere un film, però me lo sono guardato in 4 ore, cioè tra una cosa e l'altra, lo sai, no? Fai questo, fai quello. Ma te non mi lascia vedere niente in televisione, non mi lascia vedere. E quando c'è roba che gli piace lì, mi oggi a me, domani ti lascio vedere quello che vuoi. Ma dimmi tu, ma di Cussini. Ma che è il sabato, guarda questa. E a chi non è venuto oggi proprio che sabato? Me. A Macca. Vabbè, in TV ti devi accontentare, ma tu ce l'hai tipo Netflix col computer, roba del genere? No, c'ho nulla, se no già ce l'ho il computer, ma non mi sono iscritto a nessuna cosa. Sì, Natali, quando hai tempo un giorno, ma proprio a tempo perso, proviamo Skype dopo tanto per vedere se il mio abbonamento è ancora valido, perché si dice che se non lo usi per tutto tempo te lo annullano. Non lo so, io Skype non ce l'ho neanche qua, dovrei reinstallarlo. Ah, vabbè, non ce l'hai più, no, vabbè, non fa niente, tanto lo posso provare anche con altre persone più o meno. Sì, roba che si usa poco, Skype, cioè WhatsApp ha le stesse cose, le stesse funzioni, però la qualità è inferiore del video di Skype, di WhatsApp, ho notato. Skype era un po' più curato, probabilmente la compressione è meno marcata, capito? E le immagini sono più pulite. No, io non lo usano più nessuno, prima già lo usavamo questo Skype. C'è gente ancora che lo usa, magari gente all'estero che deve parlare con l'Italia, con la famiglia, allora lo usano, ma se no non sta usando più nessuno di questo Skype. Ehi, vabbè, chi ha contatti con le famiglie, ma ti ho detto, WhatsApp fa le stesse cose, presumo anche Telegram. Lo sai che le prime volte che l'avevamo installato, anni e anni fa, quando lo usavano proprio per chattare, mi chiama questa, si chiamava tipo Magda, Olga, una cosa del genere, dalla Polonia. Ha detto, ma chi sei? Cioè, ha trovato il nome a caso e ha chiamato. Vabbè. E infatti WhatsApp fa la videochiamata, non lo so, Telegram ce l'ho ma non l'ho mai provato, la verità. Una volta c'era quella porcheria di Windows 98, come si chiamava? Net, com'era? Non me lo ricordo più. Porca miseria, era una finestrella piccola, una qualità schifosa era. Era tipo 320x240 o meno. Te lo ricordi? Era di serie con Windows. Ma non me lo ricordo, la verità. Windows Media Player. Sarà Video Media Player. No, era per le videochiamate proprio, per chattare viso a viso con un'altra persona o quantomeno con l'audio. C'era video, audio, il testo, lo scambio file, però non era una cosa pubblica con più persone, era proprio punto a punto, come si chiamava? E sono passati tanti anni a Atari, ti sto parlando del 2000, figurati. Sì, è passato più di 20 anni, già lo credo, se non me lo ricordo. Non so se tu hai bazzicato su quelle chat dell'epoca nel 2000, MSN chat com'era, che trovavi le stanze con tante persone, c'era già più educazione all'epoca, stangavano di più quelli che parlavano male, che scrivevano male, capito? Che offendeva, lo banavano subito. Diciamo che erano le prime cose di internet, dai, non primissime però, se ne passata a questo tipo di porca miseria. Forse sarà MSN Live, quello lì doveva essere. Qualcosa del genere, non ricordo. Questa era solo chat di testo scritto, potevi mettere le faccine, i cuoricini, le solite terminate, molto belle. Poi hanno cominciato a chiuderle, a migrare verso altri tipi di coso, ma era bella l'epoca, soprattutto quando potevi entrare in chat con nominativo, la password, fregati un altro. Adesso magari entra una greppa di gente a parlare a quest'ora, a te rimani. L'altra notte sul 12 c'eravamo io, Gavino, quello di Porto Torres, poi c'era Tino Muscolo, e molte volte dice che entra anche Franco Di Sorso lì, ed eravamo fino a tardi parlando. Mi hanno detto quando voglio entrare entro, però non li ho più sentiti, erano sul 12. Sì, loro usano quel canale lì. Non lo sapevo nemmeno che entrasse più, io per un periodo dissi addio, poi non più, quindi a un certo punto poi a una certa la spengo, mi attacco alla TV, non faccio nemmeno più ascolto, capito? E pochi altro, vabbè, poi non si è verificato più niente di strano, in apparire di quella cosa che abbiamo parlato al telefono. Sembra tutta nella norma, presumo che fosse il gatto che ha passeggiato sulla tastiera. Aspetta che ha suonato uno e lui sta sbagliando. Salutami, bambini. Giorgio che sta andando a lavorare, il medico, quello che... Ciao. Psichiatra infantile, il mio vicino. Ah, tu sei sotto controllo, tipo il Mossad sei diventato. Ah, non può passare nessuno qua che lui non abbaia. No, lui era Giorgio. Ha suonato perché sta andando a lavorare, oggi fa la notte. La moglie addirittura lavora a Cagliari, roba di... perché si sta prendendo la specializzazione la moglie, no? E allora sta lavorando a Cagliari, roba di sacrificio stanno facendo, si sono sposati da poco. Sì, e quindi hanno scelto anche un'abitazione un po' modesta, dai, almeno per adesso. Poi quando faranno i soldi, magari anche una villetta. E i soldi li può fare se si mette a conto suo, a fare il libero professionista. Adesso sta lavorando all'ospedale, poveraccio, roba di turni sta facendo. Cavolaccio. Molto giovane. 33 anni. 29. E lei 29. Però lui a Cagliari adesso sta studiando e non sta venendo neanche, se no veniva il venerdì qua e se ne andava via il lunedì mattina. Eia, un po' di gavetta, eia. Certo, se lavori per il coso pubblico, se fai il privato, se lavori in privato cominci a farti qualche soldo in più, ma vabbè. Natali quasi, no? Mi travaso nell'altra stanza, vediamo cosa mi posso organizzare di audiovisivo. Ma cosa stai facendo tu col computer? Io per vedere qualcosa della televisione, cosa devo fare, Marco? Allora, no, ti dirò, col computer non ho provato nemmeno a guardare se c'è il sito, però penso che ci sia l'equivalente del sito. Per lo smartphone, tipo tablet, quelle cose lì si usa RaiPlay per i canali DAI e Mediaset Infinity, l'applicazione sempre per i canali Mediaset. Così quando passo da una stanza all'altra, magari che non mi voglio perdere il pezzo di film che sto seguendo, ti seguo il pezzo con lo smartphone. Se non fosse che il mio smartphone ormai è tutto scassato, è muto, non ha audio, capito? È un macello. Guarda, due giorni fa ero lì per prenderlo. Però, non ho voluto spendere per adesso. Se no c'era l'offerta, il Redmi Note 12 Pro. Bellino, 2,59, 2,57, una cosa del genere. quello era adeguato ai tempi, diciamo, dai, 6 giga di RAM. Ma non è meglio un tablet, col telefono se ne escono gli occhi. Ma sai cos'è? Io c'ho TV in tutte le stanze, quasi tutte le stanze. Quindi in cucina c'è un coperto, vabbè, se vado in bagno non c'è TV, pazienza, ma metti che devo scappare in bagno, non mi voglio perdere un pezzo di film, con lo smartphone. Il tablet è già più pesante, ingombrante, non ce l'hai sempre appresso, e lo smartphone te lo metti in tasca invece nei pantaloni, nei pantaloncini, ci sta, capito? Per quanto siano enormi adesso, gli smartphone di adesso, caspita, 6,7 pollici quasi, sono dei barconi, sono. Che vuoi che ti dica? Ma vabbè, cercherò di fare qualcosa col computer, tanto c'ho le cuffie, almeno mia moglie si guarda una cosa e io me ne posso guardare un'altra. Guarda, se tu vai sul sito RaiPlay, io penso che l'applicazione serva per gli smartphone, per la roba Android, però magari, adesso non è una teoria mia, credo che ci sia il sito, ti chiedono di registrarti sempre il nome utente, cioè le voglio l'email sempre per la pubblicità, come dire, almeno campano a quello, poverini, perché sono senza soldi, capito? La cara mamma Rai o Mediaset, sono senza soldi, sì. E una volta registrato ti guardi i canali da lì, senti le cuffie. Infatti così non rompo le scatole a mia moglie, capito? Perché non posso mettere nessun film, per esempio di quei film d'azione che piacciono a me, perché lì ha paura e te l'ho fatto togliere dalla televisione. E cosa? E non guardo mai nulla. È molto bello Focus, i documentari sono belli anche, scienza, tecnologia, quelle cose lì, là. A parte i film, no? E io ce l'ho quello della Rai e quello di Mediaset, capito? Però non mi sono registrato. Ma certe volte puoi accedere anche tramite Google, se sei già registrato su Google per internet, facili con Google, non devi mettere né il password, è tutto automatico. Vabbè, proverò Marco. Comunque ho intenzione di mettere quell'antenna HF per questo qui, così mi posso ascoltare. C'ho il DSP, ma lo sai, una figata, perché ti toglie il QRM e ti fa sentire la voce chiara chiara. Ah, ma quel filtro famoso tipo accordatore? Quel filtro che ti avevo fatto vedere io, che si attacca alla colonnina del baracchino dietro, si mette un'altra colonnina e così quando tu schiacci il filtro ti toglie tutto il QRM, in 40 metri deve essere una figata. Attacco quell'antenna HF che ti ho detto, così non ho problemi, tanto con quella non ci devo parlare. La faccio 1,76 come mi ha detto tu e ce la schiaffo lì. Naturalmente è peccato perché sarà un po' bassa, è un po' sacrificata lì, perché anche avete, diciamo, gli edifici, le case molto ravvicinate, e quindi farà molto molto da scolo di bottiglia la ricezione. D'altronde lì, capito, cioè lì o ascolti una banda o l'altra, devi sempre cambiare il ponticello, e se vogliamo essere pignoli devi fare anche la taratura fine dello stilo, 80 metri, 40 metri. A proposito, te l'avevo mandata la tabella delle tarature, se no la cerco e te la mando. Aspetta, guardo su WhatsApp, che tanto ce l'ho sul computer io. Allora, aspetta un attimo, che guardo e ti do la risposta. Sì, perché tra i file ce l'ho, su qualche hard disk ce l'ho. Mi basta digitare Proxel Prox1 immagini, la ricerca per immagini, e dovrebbe uscire a Pizzu. No, non me l'hai mandata Marco. Non me l'hai mandata. È un macello qua. No. Non me l'hai mandata quella cosa lì. Ma intanto fare i 40 metri a me mi piacciono, non mi trattengo a lungo, dai, sul tardi molto non mi trattengo, se no avrei ascoltato un pezzo di 40 metri, la metto fissa sui 40 metri, tanto c'ho una zappa lunga per metterla e la metto molto distante dal muro, non la tengo attaccata al muro, no, l'antenna. Ecco, quello aiuta, sì. Se no, se potevi, se la staffa era corta, bastava inclinarla a 45 gradi, bene o male il segnale, qualcosa dovrebbe entrare. Io, vabbè, in casa avevo provato quando non c'era ponteggio, ma un rumore, per carità. No. Meglio da 5 ottavi, allora. E infatti c'è bella dritta, se la vince e passimi, allora sai cazzo quanto si vede, c'è sotto l'antenna della TV nuova, ho messo l'antenna della TV e sotto l'antenna del baracchino, e più l'antenna del baracchino, bella alta, cazzo di lusso. Sono tanti anni, ecco, l'antenna. Quella l'avevo presa quando era uscita, avevo aspettato un po', non avevo visto i pareri, con cui l'avevo provata, e riuscivi ad accordare 1-1 al centrobanda e mi pare che avessi 100 kHz di larghezza di banda, perché sono strette, no? Lì. E ci avevi due agli estremi, cioè 50 kHz più in alto, 2, 50 più in basso, 2. Però bene o male, vabbè, quello per chi la usa poi, io era per, l'avevo fatto per avere il punto di risonanza massimo in modo da ricevere bene. E io, bene, vabbè, allora te la cerco con calma e te la mando, ok? Magari non stanotte, ma magari domani. Sentito? Provi due centimetri in più o meno, con un centimetro la lasciami, Natalia, capito? Se c'è uno smitter di riferimento meglio ancora. Ok, ci sentiamo. Saluta Concetta, saluta l'altro amico, il vicino, là, chiamiamo il vicino. E sentiamo in altra occasione, ok? Ciao, buonanotte. Ciao Marco, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, dai. QRT anche per me, tanto non c'è nessuno.